Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Sono tornata, sono le 12.06 e eccomi qua, la vostra salutare ossessione quotidiana. Benvenuti da Nicoletta a una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. A proposito, com'è andata questa settimana? In qualunque modo è finita, ci aspetta un weekend, come è iniziato? Allora, dedicatemi mezz'ora del vostro tempo, accompagnatemi, vi prego, in questa seconda puntata e nel frattempo, mentre mi ascoltate, oppure componete, che so, il numero verde per salutarmi, 800 24 00 24, regalatemi un sorriso, io lo ricambio di cuore, sorridiamo, facciamoci amici questo regalo e proviamo anche a pensare quante volte sorridiamo durante la giornata, se la cosa ci viene spontanea, naturale, o invece dobbiamo un po' imporcela, sforzarci un po', insomma. Comunque facciamolo, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, perché ci sono tante occasioni per sorridere, ci sono anche tanti tipi di sorriso, c'è quello di approvazione, quello ironico, ammiccante, seducente, divertito, insomma sfoderiamo quello che in questo momento ci viene meglio, perché non può che farci bene, perché la ricerca ne è convinta. Intanto che sorridete o provate ad atteggiare la bocca a sorriso, io vado a salutare la prima ospite di questo sabato di Obiettivo Salute, la dottoressa Giovanna Luini, medico, comunicatore scientifico e scrittrice. Buongiorno, ciao Giovanna. Ciao, ma che gioia e che sorriso, Nicoletta, anche il sabato, sono felice. Bene, anch'io, vorrei di essere con i miei ascoltatori e di essere in compagnia di tanti esperti che si rendono così disponibili, a volte ci mettono la faccia nelle nostre dirette video tutti i giorni dal lunedì al venerdì e intervengono in trasmissione per aiutarci a dare un'informazione chiara e autorevole. Giovanna, è gratis e alla portata di tutti, fa molto bene sia chi lo riceve sia chi lo dona, possiamo dire che sia il miglior lubrificante dei rapporti personali, ma il sorriso funziona anche come terapia, diciamo che è uno straordinario integratore del nostro benessere emotivo e di quello anche di chi ci sta accanto. Ridere e sorridere è in fondo una cosa seria, tanto che ha la sua chimica, Giovanna. Ma sì, perché quando sorridiamo mettiamo in moto tutta una serie di ormoni e neurotrasmettitori, che sono delle piccolissime sostanze che vanno nel circolo sanguigno e raggiungono tutti gli organi, no? In particolare il cuore, il cervello, le arterie, quindi la circolazione. Queste sostanze che noi mettiamo in moto sorridendo regolano la pressione arteriosa, quindi la abbassano, ci proteggono contro l'ipertensione, regolano il battito cardiaco e favoriscono la produzione della serotonina, che è l'ormone cosiddetto del buon umore, in realtà io vorrei dire l'ormone antidepressivo. Peraltro non raggiungono solo organi che noi consideriamo tra virgolette nobili, pensa che la serotonina viene prodotta molto anche dall'intestino, perché certo, l'intestino è, l'abbiamo scoperto di recente, uno degli organi più legati allo stato di ansia o di depressione, alla buona salute dell'umore, diciamo. Quindi pensa cosa facciamo quando sorridiamo, mettiamo in moto i neurotrasmettitori, gli ormoni vanno in giro e riusciamo addirittura a combattere ipertensione, battito cardiaco alterato e la depressione, e lo facciamo muovendo la bocca che è, tra l'altro, un luogo di protezione immunitaria. Quando sorridiamo attiviamo alcune sostanze che abbiamo in bocca e peraltro abbiamo anche nell'intestino, e alcune di queste sono batteri che non sono cattivi ma sono buoni e ci proteggono dalle infezioni. Quindi sorridere è una barriera contro molti malanni veri, malanni organici. Allora, noi siamo qua un gruppo di donne, c'è Roberto in regia alla parte tecnica, c'è Claudia in assistenza in redazione, ci stiamo regalando un sacco di sorrisi. Cis, cis, cis. Allora, intanto 800 24 00 24 potete mandarmi anche un WhatsApp, potete mandarmi la foto di un sorriso che volete regalarmi o regalare magari a qualcuno. 349 238 6666. A proposito, Giovanna, ci sono, abbiamo detto, tanti tipi di sorriso, ma le neuroscienze neuroscienze si sono concentrate su due tipologie di sorriso, quello volontario e quello spontaneo. Il primo è quello che facciamo per convenienza, educazione, quando entriamo magari salutiamo qualcuno. Il secondo è quello che invece si accende senza che noi neppure ce ne accorgiamo e che illumina i nostri occhi. Entrambe naturalmente sono utili e funzionano, ma le neuroscienze hanno scoperto che attivano a livello del cervello delle aree diverse, ad esempio. Sì, ho visto gli studi, sono interessanti, le aree del cervello sono diverse e hanno funzioni diverse. Ne ho tratto una cosa, perché sai che a me piace essere pratica dal punto di vista della medicina. Mm-hmm. Quando noi decidiamo di sorridere, facciamo comunque un buon servizio sia a noi che agli altri, perché il nostro cervello è come se si organizzasse per funzionare meglio sia nelle relazioni sia in alcune prestazioni che ci servono per sopravvivere. Quindi sorridere anche forzatamente poi si porta dietro una cascata tale che diventa comunque benefico. Il sorriso spontaneo è il sorriso che accende, il sorriso che fa brillare. Se tu fai una risonanza magnetica funzionale al cervello mentre sorridi spontaneamente, si accendono più aree, brilla di più, mettiamola così. E ci brillano anche gli occhi. E quindi all'amica che al 349-238-6666 mi ha mandato un messaggio chiedendo se il sorriso è finto o forzato, se i due tipi di sorriso hanno lo stesso effetto, beh, le ricerche dicono, Giovanna, che basta anche sforzarsi a sorridere, qualcosa guadagniamo. Assolutamente sì, il primo gesto può essere forzato, noi stiriamo la bocca e tentiamo di sorridere, in realtà poi il nostro corpo, che è molto intelligente, si attiva e tutto questo si porta dietro una reazione che rende il sorriso comunque un sorriso che fa bene. È molto difficile che il sorriso sia realmente forzato, e poi insomma lo sappiamo benissimo, quando vediamo qualcuno che sorride in modo realmente forzato, quel sorriso dura 2 secondi, perché? Perché il corpo non ha risposto, il cervello nemmeno, non si sono attivate quelle aree. Il sorriso di mio figlio, ci scrive Gianni da Milano, e quindi regalandoci il suo sorriso, quindi facciamo veramente una cordata di sorrisi, ci vorrebbero più sorrisi, soprattutto in questi giorni, in questo periodo. E Fabio invece, che è un runner, ci scrive da Firenze: appena tornato dalla mia corsetta quotidiana, un bel sorriso per voi. Siamo anche più belli, Giovanna, quando sorridiamo. Chi ritorna dalla corsetta e sorride ha anche in circolo un bel po' di serotonina, quindi sorride anche come conseguenza, pur essendo magari stanco. Ma siamo senz'altro più belli, perché il sorriso, in realtà ha a che fare con quella reazione che dicevi tu prima. Sorridiamo e attiviamo anche dei messaggi, i ferormoni stessi, che non servono solo ad attrarre dal punto di vista sentimentale le persone. I feromoni servono per far sì che il mondo ci accetti, si incuriosisca, ci si avvicini. Quando sorridiamo sono al massimo, quando invece abbiamo, come si dice, una piva lunga così, è molto più difficile che la gente sia incuriosita, voglia venire da noi e si predisponga bene. Quando per esempio entriamo in una stanza e sorridiamo, questo è provato, dal punto di vista psicologico, noi abbiamo già un 50% di successo se stiamo entrando per ragioni lavorative rispetto a quando entriamo senza sorridere. Ecco, quindi costa poco e fa sempre bene. Insomma, il guadagno è assicurato, un ottimo investimento. Giovanna, ti ringrazio, ti saluto, ti sorrido. Ci vediamo in diretta Facebook. Ci vediamo in diretta Facebook e noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo. Se volete intervenire, il nostro numero verde è a vostra disposizione. A tra poco. Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Danacol, grazie ai suoi steroli vegetali, riduce il colesterolo in modo naturale fino al 10% in 3 settimane. Funziona! Obiettivo salute weekend. Ma quanti sorrisi mi state regalando? Stanno arrivando via WhatsApp al 349-238-6666. Quanto siete belli! Beh, il sorriso, per essere bello, deve essere anche sano. In questo caso i vantaggi raddoppiano. Mens sana in corpore sano, dicevano i latini. Oggi possiamo aggiungere, anche alla luce degli studi più recenti, bocca sana in corpo sano, perché la salute della bocca, come anticipava anche Giovanna Luini, ha un ruolo molto importante per la salute generale e in modo particolare per quella del nostro cuore. Allora cerchiamo di capire i meccanismi che sono alla base di questa relazione, perché, come amo ripetere, ascoltatore sensibilizzato, pericolo evitato. Ci aiuta il dottor Daniele Andreini, responsabile dell'unità operativa TAC cardiovascolare del Monzino di Milano. Buongiorno dottor Andreini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dottore, la salute del nostro cuore dipende anche dallo stato di salute della nostra bocca. È un'affermazione che, detta così, può sembrare strana, ma che si lega ad un grande filone, di studi della medicina, si focalizzano sull'infiammazione. Sì, assolutamente, l'infiammazione e l'infezione che la provocano. Noi sappiamo che la placca batterica dei nostri denti rappresenta il concentrato più importante di diversi batteri di tutto il nostro organismo, e quindi questi batteri, se non sono tenuti sotto controllo da un'igiene dentale, orale perfetta, possono creare infezioni locali che sembrano banali, ma in realtà possono propagarsi ad altri organi, fra cui il cuore, un organo bersaglio, e dare a livello delle nostre valvole cardiache, quelle più importanti, la valvola aortica che connette il cuore con il circolo e la valvola mitrale che sta proprio all'interno del nostro cuore, possono dare l'endocardite, che è un'infezione conosciuta e forse ultimamente questo aspetto è un po' trascurato. Ma sicuramente c'è un altro aspetto che credo vada sottolineato, di più recente acquisizione, che è di grande interesse perché è legato all'infarto del miocardio, che è forse la patologia che tutti noi temiamo di più a livello delle malattie cardiovascolari. Infatti, certo, questi stessi batteri che si localizzano a livello del cavo orale, che sembrano così innocui, invece è stato dimostrato piuttosto recentemente poter addirittura far progredire la placca aterosclerotica delle nostre coronarie. Le nostre coronarie, che come sappiamo sono i vasi così importanti perché portano il sangue al cuore. Quindi più placca, più restringimento di questi vasi e quindi addirittura più rischio di infarto del miocardio. Quindi insomma stiamo parlando di un qualcosa di estrema importanza. Assolutamente. E tutto parte anche dall'igiene orale, dottore. Quindi questo è un aspetto molto importante. La bocca in salute svolge anche un ruolo protettivo nei confronti della salute generale, ma questo aspetto anche della placca è sicuramente, lei ci ha portato una novità e quindi questo ci farà riflettere. Ma dottore, se l'infiammazione è un possibile fattore di rischio per l'infarto e in genere per le malattie legate al sistema cardiocircolatorio, è possibile individuare dei marker per misurare preventivamente il rischio di avere un problema al cuore o anche alle valvole, perché lei ha citato anche le valvole? Certo, ma allora diciamo che l'aspetto, il marcatore, come lei l'ha giustamente definito, che recentemente è stato più valutato e citato in questo contesto, proprio in questa relazione, è la PCR, la proteina C-reattiva, che è un marcatore di infiammazione che molto spesso viene incluso negli esami del sangue che noi facciamo periodicamente, quindi basta un semplice prelievo di sangue venoso, quello che siamo abituati tutti a fare, per valutarne il suo valore e quindi il fatto che sia incrementato o no. Questo è estremamente importante perché la PCR da sola, se elevata, è di per sé stessa un fattore di rischio di infarto del miocardio e di malattie cardiovascolari. Chiaramente è un fattore di un'infiammazione che può esistere ai vari livelli, nei vari organi, quindi non è specifico per i denti, ma può essere indicativo valutarlo. Certamente non può sostituire quello che dovrebbe essere di routine un controllo dal nostro odontoiatra di fiducia. No, certo. E quindi, certo. Ma dottore, quindi noi possiamo dire che la PCR è un esame, che ci segnala al medico che c'è un'infiammazione. Esatto. Più è alta, esatto, più c'è il rischio di infiammazione. Più alta, più c'è uno stato infiammatorio in corso, e questo può anche riguardare, magari se non si trova null'altro, perché non ci sono altre infezioni apparenti in corso, non c'è tosse, non ci sono problemi urinari, eccetera, che si tratta effettivamente del cavo orale. In questo caso credo che una visita dall'odontoiatra sia necessaria per mettere in atto le cure del caso. Allora, dottore, prima di salutarla, una rapida sintesi, proprio a punti, così in modo chiaro noi ci portiamo a casa qualche cosa, qualche informazione, ma autorevole, che ci aiuta in qualche modo a prendere consapevolezza di quello che possiamo fare per stare bene, per continuare a stare bene o nel caso per recuperare il benessere. Certamente, quindi salute dei propri denti, delle gengive, quindi diciamo di tutto il cavo orale, può essere legato effettivamente, non può non voler dire semplicemente avere un bel sorriso, ma anche avere un atteggiamento di protezione nei confronti del nostro apparato cardiovascolare. Questo vale, io credo, per i pazienti, o meglio per le persone comuni che magari hanno le gengive che sanguinano o hanno qualche problema a questo livello, delle carie, delle patologie croniche, ma anche io credo sia importante che anche i miei colleghi, i medici, prendano consapevolezza del problema e quindi un medico di medicina generale o un cardiologo che segue un cardiopatico o un malato a rischio per patologie soprattutto coronariche, è ovvio, deve continuare assolutamente nelle cose più importanti che già mette in atto, quindi controllare la pressione, il colesterolo, la glicemia, se il paziente fuma deve assolutamente avvisarlo dei rischi a cui va incontro, ma forse, visto che c'è qualche evidenza che addirittura la cura delle patologie soprattutto croniche del cavo orale possa addirittura prevenire in parte, migliorare il rischio di natura cardiovascolare, allora forse anche questo aspetto potrebbe essere incluso nelle precauzioni che noi medici dobbiamo raccomandare ai nostri pazienti cardiopatici o anche semplicemente con un profilo di rischio un po' aumentato. Grazie dottore, ci sentiamo, ci regali anche lei un sorriso che non può che farci bene volentieri. E buon weekend. E dalla pelle al cuore che devo ritornare senza più parole. Mi piace troppo lui. Chissà se una volta verrà a fare una diretta Facebook con me, così me lo sbaciucchio anche un po'. Comunque, lui canta dalla pelle al cuore, Venditti. Oggi noi facciamo un percorso alternativo, siamo partiti dalla bocca col potere terapeutico del sorriso, abbiamo fatto una fermata al cuore, noi proseguiamo verso l'intestino, uno degli organi più intelligenti e importanti del nostro organismo, non solo per le funzioni che svolge, e mi riferisco naturalmente a quelle legate all'assimilazione del cibo e dei nutrienti, ma anche e soprattutto perché funziona come una sorta di laboratorio in cui si verificano numerose reazioni immunitarie. Insomma, l'intestino ha a cuore la nostra salute, ci difende, o per meglio dire, ci mette nella condizione di farlo. Buongiorno alla dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa di Humanitas e ricercatrice all'Università di Bologna. Buongiorno. È proprio così. Due minuti con lei per dire che cosa possiamo fare per rendere un intestino felice. Io mi taccio e acconsente, però. E acconsente e sorrido. Ha perfettamente ragione quando dice che il microbiota, che è praticamente la parola che riassume la popolazione dei batteri intestinali, svolge importantissimo ruolo a livello del sistema immunitario. Cosa vuol dire? Il sistema immunitario è quell'insieme di cellule, di tessuti che è predisposto alla difesa contro i batteri cattivi. Sì. Quindi il microbiota educa il sistema immunitario a convivere con i batteri buoni e con i batteri cattivi, gli insegna a mantenere questo equilibrio tra i batteri innocui e quelli potenzialmente dannosi e poi contribuisce alla sua maturazione. Per cui il microbiota è fondamentale perché il nostro sistema immunitario funzioni bene, perché se lei tiene presente che la maggior parte delle cellule immunitarie risiedono proprio nell'intestino, e l'intestino è la barriera tra quello che è fuori e quello che è dentro nel nostro organismo. Quindi, dottoressa Salvioli, teniamolo da conto e poi cerchiamo di renderlo anche felice, perché dalla felicità del nostro intestino dipende in fondo la nostra salute. Noi siamo partiti dal sorriso e un po' il cerchio si chiude. Ma si chiude, ma è tutto collegato, perché il sorriso, come giustamente è stato detto, stimola la produzione di endorfine, e le endorfine fanno parte di quegli ormoni della felicità, fra cui la serotonina, che è prodotta per l'80-90% dall'intestino. Quindi noi dobbiamo salutarci, perché Obiettivo Salute termina qua, ma inviteremo la dottoressa Salvioli per un'intera puntata in cui ci insegnerà come rendere il nostro intestino felice. Intanto noi sorridiamo, e sorride anche lui. Dottoressa Salvioli, grazie per essere stata con noi. Grazie. Io vi ringrazio di tutte le foto che mi avete mandato, dei messaggi, via WhatsApp. Torno domani, lunedì, per Obiettivo Salute, sempre a mezzogiorno, e buon weekend da Nicoletta.